Sì, se il blu sarà più blu, se la vita avrà qualcosa in più, se mai fine avrà l'amore, se ti senti giù e hai bisogno di un amico che resti a farti compagnia, se vuoi, ecco, ci sarò io. Grazie al cielo che mi ha dato questa voglia ed anche un po' di fantasia. E con le dita strimpellare una chitarra per un po' di compagnia. Se sono triste suonerò soltanto un blues, magari inventerò parole dove tu ti senti ancora innamorata e senza me, amore, tu non vivi più. Se poi la mia canzone piacerà, se nella testa di qualcuno resterà, se arriverà lontano dove c'è più freddo e qualche cuore scalderà. Come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, se non potessi dare colori a questa vita con quella musica che è in me. Su cosa nascerà può dipendere dal giorno, se è di quelli grigi oppure c'è sole a volontà che ti mette dentro l'anima una voglia di cantare. Sì, eccoci sarò io. Chissà se serve per barare con me stesso quando provo nostalgia e mi butto a capofitto tra le note con un poco di follia. Raggiungerò gente perduta, chissà mai, gente che ama, che non ama i propri guai, gente che ride, fuma, soffre, gente amara che si inventa la bella, gente che butta la sua vita e non lo sa, gente sconfitta, gente che non pensa mai, gente che gioca, vince, perde, gente allegra che anche il cielo aiuterà. Come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, se c'è qualcuno questa notte che mi ascolta, forse allora capirà. Come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, come farei, se c'è qualcuno questa notte che mi ascolta, forse allora capirà.